Lunedì, terza settimana, lodi mattutine. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale. Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, padre di immensa grazia e di perenne gloria. Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto. Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen. Prima antifona. Beato chi abita la tua casa, o Signore. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore conceda grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Beato chi abita la tua casa, o Signore. Seconda antifona. Venite, saliamo al monte del Signore. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Venite, saliamo al monte del Signore. Terza antifona. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore da tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo ai popoli narrate la sua gloria. A tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Grande è il Signore, è degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli. Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri, prostratevi al Signore in sacri ornamenti. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra i popoli, il Signore regna. Sorregge il mondo perché non vacilli. Giudica le nazioni con rettitudine. Gioiscano i cieli, esulti la terra. Frema il mare e quanto racchiude. Esultino i campi e quanto contengono. Si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Lettura breve. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio nel giudizio. Responsorio breve. Da sempre e per sempre, benedetto il Signore. Da sempre e per sempre, benedetto il Signore. Egli solo ha fatto prodigi. Benedetto il Signore. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Da sempre e per sempre, benedetto il Signore. Antifona al Benedictus. Benedetto il Signore, nostro Dio. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Invocazioni. Preghiamo Dio nostro Padre, che ha posto gli uomini nel mondo, perché cooperino in unità di intenti al gran disegno della creazione. Diciamo con fede: fa che ti rendiamo gloria, o Signore. Fa che ti rendiamo gloria, o Signore. Sii benedetto, o Dio Creatore, noi ti ringraziamo per le meraviglie dell'universo e per la vita che ci hai donato. Fa che ti rendiamo gloria, o Signore. Guarda i tuoi figli, che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano alla tua opera. Fa che si conformino alla tua volontà. Fa che ti rendiamo gloria, o Signore. Il nostro lavoro giovi al bene dei fratelli. Concedici di edificare con loro e per loro un mondo come a te piace. Fa che ti rendiamo gloria, o Signore. Dona pace e gioia a noi e a quanti incontreremo oggi sul nostro cammino. Fa che ti rendiamo gloria, o Signore. Padre nostro,